cosa no. Ci sono domande a cui non so se ti risponderò. Tu chiedi pure, ma se ho voglia di rispondere, dimmi solo quanto sei disposta ad attendere. Spendere o scegliere quattro parole, a caso parlo solo con chi va al di là del proprio naso. Passo dopo passo, caro, lasso viva la giornata. Se la pensi come me, una mano alzata. Cerco di capire come gira il mondo, ti rispondo ma non so se mi stai ascoltando. Prendo tutto come viene, se mi sta bene, e se mi rispetti ti rispetto, altrimenti niente. E no, forse è così che non va. Troppi si nascondono dietro una critica. Spero Dio mi perdonerà se sono un peccatore, perché non vado in chiesa la domenica. Senti come carica, forse è la mia anima che mi esamina e rianima. Cammina se la pila ancora scarica, malefica. Quando serve, sono cattivo, ma non sempre. Un cucciolone, sì come Denver, ma l'occasione, come Bender. Funky beat, feel like it, we, ma non così. Se ti piace con le mani dammi tempo, se sei stanca ti capisco, non mi lamento. Attento non mi vento, quando all'entra stendo tendo una mano per vedere come tira il vento. Quello che mi dai ti restituisco, preferisco essere chiaro ma ti stupisco. E no, forse è così che non va. Si dice si raccoglie quello che si semina, ma io so solo come si pianta. L'ombrellone in spiaggia l'estate e la domenica. And get your mind in order, on top like a billboard smash. Cause everywhere I go it's like burst, I ain't coming at last. I got game and got the game on smash. It's nothing, I get it poppin', rockin' non stopping. Yeah, I'm in the club and the club stay rockin'. I'm feeling like a villain when I'm killing rappers on tracks. You know me, champagne on deck. I got a flow and yeah, I got that dough in her. Break trees like my man Uncle Go in her. It's going down, order another round. Put your cups up and get blessed by the sound.